Ringraziamenti. Un ringraziamento sincero e sentito va a tutti e 10 i comuni del Montagnanese, custodi di una storia antica e preziosa che merita di essere conosciuta, raccontata e celebrata. Montagnana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Vitale, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Urbana. Un ringraziamento speciale, dal profondo del cuore, va a chi da oltre 30 anni dà voce al Palio dei 10 Comuni, all'Associazione Palio dei 10 Comuni, che senza di essa la storia che viviamo ogni anno la prima domenica di settembre non esisterebbe. Grazie per tenere viva la fiamma della memoria, per far sfilare ogni anno i gonfaloni dei 10 Comuni, per far battere i tamburi all'alba e far scattare i cavalli lungo il vallo. Grazie per trasformare la storia in emozione, il passato in presente e la memoria in festa condivisa. Finché ci sarà il palio, la Skuldascia vivrà.